Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 21 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici su Liberi Dentro Eduradio TV. Sono sempre Caterina Bombarda alla cura e conduzione di questo programma che parla al carcere e alla città e qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno a te Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. E dobbiamo ringraziare davvero di cuore i nostri ascoltatori che nel mese di agosto sono stati, anzi questo mese di luglio sono stati bravissimi perché ci permettono di continuare ad agosto, ma aumentiamo la sfida, dai, cercate di aiutarci a fare le puntate anche a settembre. Quindi se rinforzate il vostro sostegno con 5.000 euro anche per sostenerci nel mese di settembre, ci permettete veramente di fare il più possibile per essere presenti tutti i giorni, un'ora al giorno, sia su radio che su televisione. Quindi andate su www.ideaginger.it e cercate Eduradio e TV. Grazie per tutto quello che potrete fare. Iniziamo subito con le nostre notizie. La moralità che serve allo Stato di Sabino Cassese sul Corriere della Sera. Carceri, scrive il Costituzionalista, bisogna sapere subito quanto siano estese le violazioni del diritto e della giustizia. E poi Cassese fa una disamina dei luoghi in cui sono stati superati i limiti della violenza perpetrata da parte della polizia penitenziaria, quindi a cominciare dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, alle caserme dei carabinieri di Roma e di Piacenza. Ma che fare, si chiede il costituzionalista, se i custodi della virtù si macchiano essi stessi di gravi colpe, spesso nei luoghi dove dovrebbe essere difesa la giustizia, abusando invece della propria autorità? Citando il grande sociologo Max Weber, che ha scritto che lo Stato ha il monopolio dell'uso della forza in vista dell'attuazione dell'ordinamento, Cassese osserva che però tale uso deve essere legittimo, come affermava anche il grande Max Weber. I manganelli adoperati a Santa Maria Capua Vetere sono stati adoperati per arrogarsi un illecito potere di punire. Carabinieri e magistrati hanno in qualche modo commesso il tipo di reati che dovevano perseguire dalla truffa allo spaccio di droga. Caterina, verrà fatta giustizia? Beh, è ora che, scrive Cassese, la giustizia venga fatta, i colpevoli puniti sollecitamente, ma senza venire incontro a sentimenti popolari. Ma indipendentemente dal corso della giustizia, che cosa farà lo Stato, si chiede Cassese, per ristabilire la sua moralità in futuro ed evitare che fatti del genere si ripetano? Ecco un piccolo elenco che ha fatto lui, necessario per uno Stato ben ordinato. Vi leggo qualcosa perché è interessante. Innanzitutto bisogna sapere subito quanto siano estese le violenze del diritto e della giustizia commesse dagli uomini e dalle donne che dovrebbero invece assicurarne il rispetto. Quindi servirebbe una bella inchiesta amministrativa, comprensiva, accurata e necessaria per fare un occhio luce su quello che sta accadendo nelle carceri. In secondo luogo si chiede, siamo sicuri che alla macchina siano preposte le persone giuste? Gli eventi recenti hanno mostrato un deficit di professionalità al quale va posto rimedio, quindi individuare le persone giuste. Terzo, c'è un deficit formativo. Chi nelle caserme e nelle carceri è in contatto con accusati e condannati dovrebbe conoscere quello che la Costituzione dispone sulla dignità di uomini e donne, quindi il famoso articolo 27 della nostra Costituzione. Quarto, in questo ripristino della moralità dello Stato occorre che si impegnino anche molti capaci e meritevoli addetti ai lavori, le stesse forze dell'ordine e gli stessi magistrati. È innanzitutto a loro che spetta l'onere di cercare i modi per autocorreggersi. Quindi magistrati e forze dell'ordine, secondo Cassese, hanno il compito di difendere anche i cittadini. Bisogna correre ai ripari, conclude, ristabilire la moralità dello Stato e restaurare l'immagine del potere pubblico. Grazie Caterina, ma che cosa ci fai ascoltare oggi? Restiamo con brani che parlano del senso della vita, Meaning of Life di Kelly Clarkson, questa giovane cantautrice americana si interroga su cosa possa dire questa vita e per lei la risposta è l'amore. Ascoltiamola. And now I E eccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Siete sempre su Liberi Dentro di Radio TV, il nostro programma che parla al carcere della città. E con Antonella, la nostra finestra sul mondo oggi ci porta in Afghanistan. Sì, vi porto in Afghanistan con una notizia che ho letto su Internazionale relativa all'annuncio del ritiro delle truppe americane dal paese. La parlamentare Nahed Farid dice: non lasceremo che ci trascinino nell'oscurità. Abbiamo bisogno di alleati in questo momento cruciale della storia. In effetti l'intervento a guida USA in Afghanistan nel 2001 fu presentato un po' come un'opportunità per aiutare le donne, e dopo 20 anni dalla cacciata dei talebani da Kabul il traguardo dei diritti è ancora lontano, in un paese classificato tuttora come il posto peggiore per essere donna, una società fortemente patriarcale dove sono considerate di proprietà degli uomini, le donne ovviamente, e dove i signori della guerra che hanno combattuto i talebani sono spesso altrettanto fondamentalisti. Insomma, le donne afghane di oggi però per fortuna non sono quelle di 20 anni fa, qualcosa è cambiato. Sono il 40% degli studenti, oltre un quarto dei parlamentari, aprono conti in banca, possiedono 2500 aziende, sono pilota, ingegnere, insomma, gareggiano per le Olimpiadi. Fanno molte cose in più e oggi hanno paura per la sicurezza e per il futuro. Le donne, dopo le peggiori violenze, hanno scalato le vette più alte sventolando la bandiera afghana, ci dice la scrittrice afgano-americana Nadia Hashimi. È triste vedere che sono state usate come grido di battaglia e poi abbandonate. Ovviamente il dibattito non è semplice tra chi vuole che le forze straniere restino e chi vuole che se ne vadano, ma soprattutto fa un po' paura la modalità del diritto senza condizioni, perché danneggia molto le donne e rafforza i talebani, che ora avanzano puntando proprio su una vittoria militare. E parlami dell'educazione, la scuola in Afghanistan, come vanno? Allora, Caterina, sotto i talebani alle bambine con più di 9 anni era vietato studiare, mentre i maschi, pensa, imparavano l'aritmetica con i Kalashnikov. Un Kalashnikov più un altro Kalashnikov uguale 2 Kalashnikov. Così hanno fatto l'unica cosa possibile, cioè quella di costruire scuole clandestine. Lo dice Sakena Yacobi, che oggi ha 64 anni e nel 1995 ha fondato l'Afghan Institute of Learning ed è nota come la madre dell'istruzione. Dopo il 2001 le cose sono migliorate, dice lei, ma ci sono ancora tante falle e secondo la Costituzione afghana, tra l'altro, i primi 9 anni di scuola sono obbligatori e gratuiti, ma non esistono fondi per i libri e per le borse di studio e quindi, insomma, capirai, non è proprio facile accedere all'istruzione. Poi c'è anche il tema della sicurezza. Ha spiegato infatti Nawgiz, madre di una delle scolare di etnia Hazara presa di mira dall'ISIS, come possiamo continuare a far entrare le nostre figlie in classe se le ammazzano? È una paura più che giustificata. Comunque, il risultato di tutto ciò è che per l'UNICEF oggi in Afghanistan il 60% delle bambine non studia. Coi talebani era il 97% e la maggior parte si sposa molto giovane, pensa il 17% prima dei 15 anni. Una società non progredisce se le sue donne non sono istruite. Questo lo scriveva Khaled Hosseini, autore del famosissimo Il cacciatore di aquiloni, l'abbiamo letto un po' tutti. È stato il libro che ci ha aperto un poco la visuale sull'Afghanistan. Non ci hai parlato dal punto di vista politico, invece c'è una situazione molto complicata, molto difficile. I talebani, per esempio, accettano la Costituzione afghana. E la verità è che non l'accettano, è quello che ci dice Sukriya Barakzai ad un incontro online organizzato dall'Istituto Sakena Yacobi, in cui appunto ci dice che con enormi difficoltà, sotto pressione di gruppi islamici radicali e i signori della guerra ostili alla divisione dei poteri, all'uguaglianza e ai diritti civili, avevamo scritto la Costituzione del 2004, però avevamo l'appoggio di USA e Europa. Non è certo la migliore Costituzione possibile, però il problema vero, dice sempre la scrittrice, è che purtroppo non era mai stata applicata veramente. E quindi un po' a causa della debolezza del governo, della mancanza di consapevolezza del popolo, della convinzione che comunque quella Costituzione fosse stata scritta dagli europei. 2 cose in minima parte le aveva ottenute però, la libertà di espressione e l'accesso delle donne in Parlamento. Oggi i talebani dicono di volere un sistema islamico, ma c'è già scritto che l'Afghanistan è un paese islamico in realtà, che non può essere applicata legge che non sia conforme ai suoi valori. Grazie Antonella per questo viaggio nella geopolitica. Quindi uno stacchetto virtuoso e poi che musica lanciamo? Restiamo con la mitica Raffaella Carrà con una canzone del 1974, Rumore. Ascoltiamola. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Musica, spunti di riflessione, voci di gente comune ed esempi di grandi personaggi, il tutto condito con un pizzico di simpatia. Il Teatro del Pratello, per Eduradio, ha realizzato epistolario teatrale con le detenute della Dozza e scritture teatrali tra carcere e città. Per Liberi Dentro e Eduradio abbiamo costruito delle pillole sulla cultura e la spiritualità islamica. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Eccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Come sapete, la seconda parte della nostra puntata ha un ospite e io do il buongiorno e il ben arrivato su Liberi Dentro Eduradio a Maurizio Millo, magistrato ed ex presidente dell'ufficio GIP del Tribunale di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. L'approfondimento di oggi e per tutta la settimana sono sempre le immagini dei pestaggi avvenuti ad aprile del 2020 al carcere di Santa Maria Capua a Vetere. Sono immagini che hanno scosso il mondo della politica e non solo. Vi abbiamo raccontato in rassegna stampa tutta questa settimana come la ministra della giustizia Marta Cartabia abbia usato parole molto dure parlando di tradimento della divisa e della Costituzione, ma io mi chiedo che lettura ne dà lei come magistrato, come chi sta a tutela della nostra legge e della nostra giustizia. È una lettura complessa perché è un fatto difficile, in questo senso che ha una dimensione semplice, nel senso che quei fatti non devono avvenire, sono sbagliati e sono manifestazioni di un animo e un rapporto scorretto nel clima carcerario e nel clima della società. Nello stesso tempo mi fanno pensare così a un atteggiamento che come magistrato ho coltivato per tutti i decenni in cui ho fatto il giudice, cioè quando una persona sbaglia e io penso che vada condannata, io facevo il giudice e la devo condannare. Mi pare giusto che io lo faccia. Poi se è giusto o meno essere condannati è un problema più grande. Nello stesso tempo ho sempre pensato e spero di essere riuscito a manifestare che anche chi sbaglia non è per questo una persona sbagliata, è una persona che ha commesso delle cose sbagliate, che non vanno ripetute, che vanno sanzionate, ma bisogna cercare di capire perché l'ha commesso e in questo caso particolare penso che ci sia tutto il clima dei rapporti carcerari che va ripensato perché probabilmente influisce in maniera negativa l'aspettativa che avevano gli agenti di dover fronteggiare in pochi, molte persone non riuscendo a fidarsi di queste persone, non riuscendo ad avere una relazione umana corretta con loro, l'unica strada che hanno trovato è dobbiamo ripristinare l'ordine in maniera da farci, da essere temuti, non da essere rispettati. Sono due cose diverse. E questo è un argomento che non viene probabilmente non solo poco trattato, ma è poco compreso, perché è un problema umano importante all'interno del carcere che si estende a tutti, nelle relazioni anche tra detenuti, che sono spesso più violente di quello che dovrebbero tra compagni di comune sventura. E quindi diciamo che l'episodio in generale lo vedo complesso, anche se nei suoi, come dire, confini esterni è semplice, violenze non devono accadere, chi le commette fa male, addirittura è un reato aggravato nel senso di quando vengono commessi i danni di una persona detenuta e quindi vanno sanzionate, ma non è sufficiente, ecco, fare questo ragionamento. Penso che sia più importante cercare di capire i perché e cercare di disinnescare le dinamiche che portano a questi esiti. La ringrazio, ha toccato molti punti, naturalmente è un argomento complesso, quindi è impossibile dare una risposta semplice, abbiamo infatti sentito tante voci. Dopo la musica interveniamo invece su un altro punto che ha toccato, che riguarda la relazione umana, ma gliela chiederò più tardi, a fra poco. Che vuoi che siano poche ore in una bara, in una bara in fondo non si sta poi male, basta conoscersi e sapersi accontentare. In questo io modestamente sono sempre stato un grande, perché per vivere a me non serve niente, solo aria, soltanto detto. Prima o poi vi frego tutti, quelli ridevano, pensavano scherzassi, da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco, ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo, ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati, ho coltivato i miei dolcissimi progetti campati in aria. Sempre a protestare, a vendicare qualche torto, e a me dicevano schifati, tu sei virtualmente morto, a te la bocca serve solamente a farti respirare. Io pensavo, non è questo il trucco, inspirare, espirare, inspirare, espirare, questo posso fare quando sono fortunato, sento l'umido del mare, io la morte la conosco, se non mi ha battuto ancora è perché io da una vita solo per un'ora d'aria. E rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro Eduradio. Abbiamo come ospite Maurizio Millo, dicevo, magistrato ed ex presidente dell'ufficio GIP del Tribunale di Bologna, e stiamo commentando i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Come dicevo, è impossibile dare una risposta semplice a queste immagini dolorose e questa complessità di notizia che ci è arrivata nel giro di poco tempo. Però mi chiedevo come evitare allora che certe situazioni si ripetano nelle carceri, come già accaduto in passato, e come mandare avanti quindi un sistema di convivenza, perché alla fine questo è il carcere, come un piccolo quartiere nella città, cooperativo tra agenti e persone detenute, ma intelligente. Allora, credo che la parola più bella sia cooperativo, non credo che si percepisca spesso o facilmente questa sensazione all'interno di un carcere, ma è la verità. In realtà, in uno spazio ristretto e necessariamente contenuto, convivono molte persone che, se cooperano, riescono a rendere l'esperienza reciproca più umana, se non cooperano, e raramente cooperano, invece tutto diventa più difficile. È un pochino, adesso in questo clima calcistico in cui tutti siamo immersi, è dire un po' come dire quando uno deve giocare in squadra e il valore della squadra non è dato solo dalla somma dei singoli valori dei giocatori, è dato dallo spirito della squadra, dal gioco della squadra, che supera, a volte supera di molto, la somma dei singoli valori. Ecco, anche in qualunque ambiente, ne parlavo prima, piccolo quartiere, ma tanto più in ambienti ristretti e così e contenuti, le relazioni che si stabiliscono sono fondamentali perché riescono a potenziare il risultato. Allora lo spirito che io auspicherei è quello della Costituzione, in cui chi è detenuto è guardato come un cittadino in grado di dare un contributo almeno pari a quello degli altri, al funzionamento della società. Ci si augurerebbe addirittura di più in caso di buon reinserimento sociale, perché ha capito che non deve più vivere rispetto alle logiche come con le logiche del passato. E per farlo capire bisogna che vive in un, per farglielo capire, bisogna che lo spirito della Costituzione sia diffuso, diciamo, nel modo di relazionarsi, nel modo di spiegare le cose, nel modo a volte di imporle anche, o di proporle, ecco, prima di proporle, se necessario, di imporle, in maniera che sia chiaro a tutti lo scopo, che è quello proprio di fare una società migliore. Se si riesce a fare una società migliore in carcere, si è già avanti, si è bravissimi, si è... e quindi le speranze sono grosse. Di fatto si realizza proprio poco questo clima, questa speranza, in parte perché la Costituzione non viene abbastanza considerata come progetto, si pensa solo che sia un pezzo di carta che sta lì, più o meno bello, più o meno apprezzato. Invece la Costituzione è un progetto che ci è stato lasciato per realizzare una società migliore, ma questo significa che bisogna impegnarsi per farlo e non solo scandalizzarsi quando avvengono cose sbagliate e non solo fare i maestri, ma imparare a collaborare, ecco, che è difficilissimo. In ruoli diversi, in situazioni diverse, ma volendo vincere la partita, giocando come una squadra. La ringrazio molto, Maurizio Millo, anche per questa immagine di squadra che ci ha dato. E allora, siccome ci ha presentato anche l'aspetto umano della legge, perché a volte ci si dimentica che la legge è fatta di uomini, ci sono persone dietro quelle divise o quei banchi a giudicarci. E quindi mi viene in mente un brano musicale, lanciamo Francesco De Gregori con... un brano famosissimo, Il Campione, Cercavo la legge, ho trovato giustizia, mi sembra la cosa più adatta ad ascoltare. A presto, alla prossima, la ringrazio. Grazie a voi, buongiorno. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. E anche oggi ci salutiamo, abbiamo avuto come ospite Maurizio Millo, sempre per una lettura dal punto di vista della giustizia, quindi di ciò che amministra le nostre vite da un piano più alto, dei fatti di Santa Maria Capua Vetere. Potete scriverci sempre su questo, se avete delle domande, se avete delle riflessioni in merito, redazione liberidentro@gmail.com, oppure per posta, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamore 2, 40, 136 Bologna. E a tra poco con la rubrica CPA Ferrara, Sonny Boy, e a seguire le lettere dal carcere. Un ringraziamento a Enea Flacco per il montaggio di queste puntate e Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione. Buona giornata a tutte e tutti e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.